Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Intorno alla casa Franca Lanza c'era come una fiera per le tante carrozze aspettanti e per tanto popolo fremente d'impazienza. Dal portone socchiuso vedevasi un'altra folla ragunata nei due cortili, uno sciame di servi con le livree nere che andavano e venivano, il maestro di casa senza cappello che s'affannava a dar ordini e la carrozza di gala a quattro cavalli che sarebbe servita da carro funebre. Quando finalmente le due pesanti imposte girarono sui cardini, tutte le teste si voltarono, tutte le persone s'alzarono sulle punte dei piedi. Impossibile portare in chiesa la bara dalle scale. Non già che pesasse molto, che anzi era vuota, ma la ressa sulle scale cresceva e nessuno poteva andare né avanti né indietro. Solo il cannone avrebbe potuto far luogo. E i curiosi, stipati nella chiesa, continuando a parlare della morta, si rivolgevano insistentemente una domanda e si proponevano una questione. Chi sarà l'erede? Nobili e plebei, ricchi e poveri, tutti volevano sapere che direbbe il testamento, come se la morta avesse potuto lasciar qualcosa a tutti i suoi concittadini. Aspettavano a palazzo l'arrivo del contino da Firenze e del duca da Palermo, per leggere le ultime volontà della principessa. Le opinioni nel pubblico erano diametralmente opposte. Alcuni sostenevano che tutto sarebbe andato al contino, ma quantunque la defunta odiasse il primogenito, era proprio possibile che lo diseredasse. No, signore, tutto andrà al primogenito. È vero che non lo poteva soffrire, ma il capo della casa, l'erede del principato. Accanto alla pila dell'acqua santa, in mezzo a un crocchio di nobilastri invidiosi e a corto di quattrini, don Casimiro Scaglisi annunziava. E il principe? Non sapete che ha fatto il principe? Quando ebbe la notizia della morte della madre, scappò al belvedere senza far chiudere il portone, per avere il tempo d'arrivare solo alla villa e senza avvertire Ferdinando alla pietra dell'ovo. Alcuni protestarono. Don Casimiro confermò. Se ve lo dico io, per avere il tempo di maneggiarsi, di far sparire carte e denari. Entrava in quel punto, protetto contro la folla dal servitore, il vecchio don Alessandro Tagliavia. Nonostante l'età, reggeva ancora dritta l'alta persona e dominava la folla con la bella testa bianca e rosea, dagli occhi chiari come acqua marina e dai baffi bionditi dal tabacco. «Guardate! È venuto a dirle l'ultimo addio!» Tutti avevano gli occhi fissi sul vecchio. Il lavapiatti a spasso continuò, interrompendosi quando l'orchestra taceva. «E io che me lo rammento piangere come un bambino, come un disperato, quando la morta lo lasciò per Felice Curcuma, dopo quello che c'era stato fra loro». Adesso lei a marcire al colatoio e lui camperà 20 anni ancora, una salute di ferro. A voce più bassa, mentre le trombe tratto tratto squillavano e le voci cantavano Requiem aeternam dona eis, aggiunse. E dalla sua brava ragazza, in una casina al borgo, tutte le sere le passa con lei. Un zitti imperioso troncò le chiacchiere. L'orchestra intonava il Che dirò io misero e la gente che stava attenta alla musica non voleva essere disturbata. Ma dopo un momento le conversazioni si riannodarono. In certi crocchi di liberali vantavano il patriottismo del duca Gaspare, sottovoce però, e guardandosi intorno per paura che qualche spia non udisse. «Un colpo al cerchio e un altro alla botte», esclamava don Casimiro accanto alla pila. «In questa casa chi fa il rivoluzionario e chi il borbonico? La ragazza Lucrezia non fa la liberale per amore di quello sciocco di Benedetto Giulente?» Thank you. Il barone Carcaretta, unitosi ai maldicenti, protestò. Non daranno mai un Zeda a un giulente. E don Casimiro, per questo io dico che il giulente è uno sciocco. Silenzio, eccoli lì. Il giovanotto, infatti, entrava in quel momento insieme con suo zio don Lorenzo, il celebre liberale lavapiatti del duca. E così, domandò don Casimiro, quando la farete questa rivoluzione? Non lo diremmo a voi, in ogni caso, rispose Benedetto sorridendo. Verso sera, mentre la servitù raccolta nel cortile commentava ancora la magnificenza del funerale, arrivò dalla via di Messina il conte Raimondo con la contessa Matilde. Il conte s'avviò per lo scalone senza curarsi della moglie né del bagaglio. Baldassarre a capochino offerse il gomito alla signora contessa, ma ella smontò senza appoggiarsi. «Più bella che mai», giudicavano le donne che le si appressavano rispettosamente. «Quantunque un po' dimagrita, in verità». La moglie del portinaio osservò anche: «Pare più afflitta lei del contino». Tutti, all'apparire della contessa Matilde, si levarono, ad eccezione di don Blasco e di donna Ferdinanda. Quest'ultima, quando la nipote le baciò la mano, borbottò un «ti saluto», freddo freddo. Quanto a don Blasco, non le rispose neppure. Egli vociava, gesticolando: «Vogliono il resto? Ah, vogliono il resto! Se vogliono il resto, non hanno da far altro che chiederlo». In un gruppo di pezzi grossi, dove c'erano fra gli altri il presidente della Gran Corte, il generale e alcuni senatori municipali, don Blasco continuava a fiottare contro i rivoluzionari e i quarantottisti che minacciavano d'alzar la coda. Egli l'aveva principalmente col fratello Duca, che s'era fitto in capo di fare il liberalone, lui, il secondogenito del principe di Francalanza. Il priore, tornato a sedere accanto a Monsignore nel gruppo delle tonache nere, dolorava anch'egli a bassa voce l'iniquità dei tempi per via della legge piemontese contro le corporazioni religiose. E don Blasco, nel crocchio opposto: «Adesso fanno la guerra senza denari, rubando la Chiesa di Cristo. E quel celebre D'Azeglio, avete letto il suo sproloquio?» Tutti s'alzarono al sopravvenire di donna Isabella Fersa con suo marito, don Mario, e con padre Gerbini. Il benedettino reggeva galantemente sul braccio un velo della dama. Questa baciò tutte le Uzeda, fuorché la principessa, la quale, schivandosi, presentò: «Mia cognata Matilde». Donna Isabella strinse forte la mano alla contessa e le si mise a sedere a fianco, sospirando: «Che grande disgrazia! Ma bisogna fare la volontà di Dio. Siete stati a Firenze? Anche noi ci fummo l'anno scorso, ma voi altri allora eravate a Milazzo». La contessa volgeva supplici sguardi al marito, quasi per dirgli: «Portami via!» Ma Raimondo non cessava di parlare del suo tema favorito. Fersa gli si avvicinò un momento per stringergli la mano ed esprimergli il proprio rammarico. «Tuo zio il duca arriva domani?» «Così mi ha detto Giacomo». «E del testamento?» «Non si sa nulla». Forse se Raimondo fosse venuto a tempo, quando sua madre lo aveva insistentemente chiamato, egli avrebbe saputo qualcosa. Ma il conte, divertendosi a Firenze, aveva fatto orecchio da mercante, quasi non si trattasse dei suoi propri interessi. Possibile allora che la principessa non si fosse confidata proprio a nessuno, a qualcuno dei cognati, a un uomo d'affari almeno. Thank you. Tutti gli sguardi si volgevano naturalmente a Giacomo e a Raimondo. Questi chiacchierava ancora con donna Isabella e pareva che il testamento materno fosse l'ultimo dei suoi pensieri, anzi che egli ignorasse perfino la morte della madre. Il principe invece aveva un aspetto più grave del consueto, quale conveniva alla tristezza di quei giorni. «Se lo zio arriverà domani, presidente, fisseremo per posdomani la lettura?» «Quando credete, principe mio, sono agli ordini vostri.» «Veramente?» aggiunse abbassando la voce. «Io non avrei tanta fretta, anzi mi parrebbe una sconvenienza verso la memoria di nostra madre. Ma sapete come succede quando si è in molti, quando bisogna dar conto a tanti.» E poiché suo fratello il priore se ne andava anche lui insieme al vescovo, li avvertì entrambi, essendo monsignore un altro dei testimoni. «Fate, fate voi altri», disse il priore disinteressato. «Che bisogno avete di me?» Ma Giacomo protestò. «No, no, che vuol dire? Bisogna fare le cose in regola, per soddisfazione di tutti.» Il domani, come s'aspettava, arrivò il duca. Mancava da 5 anni e nel primo momento la servitù e gli stessi parenti quasi non lo riconobbero. Quando era partito da Palermo aveva un bel collare di barba alla borbonica. Adesso invece s'era lasciato crescere il pizzo che dava un altro carattere alla sua fisionomia. Tutti i nipoti gli baciarono la mano. Egli si informò della disgrazia e si scusò per non essere venuto più presto. E si scusò anche per il disturbo che gli dava col principe, il quale gli aveva fatto preparare al terzo piano le stanze da lui occupate nella casa paterna, prima di lasciarla. Ma il nipote protestò. «Vostra eccellenza non mi disturba, mi aiuta. E in questo momento ho più bisogno dei suoi consigli. Sai nulla?» «E nulla. Tua madre non avrà fatto, spero, una delle sue pazzie. Quel che ha fatto mia madre sarà ben fatto.» Don Blasco dal canto suo soffiava come un mantice. Ma il peggio fu verso sera, quando cominciò una vera processione di «tutti i sanculotti morti di fame», gridava il monaco al marchese, «che hanno scroccato, vogliono scroccar quattrini a quell'animale di mio fratello!» Il principe era stato un poco esitante sulla scelta del luogo dove compiere la cerimonia. La sala rossa discretamente addobbata capiva poca gente. Il salone dei lampadari, vastissimo, non aveva altri mobili fuorché le lampade antiche pendenti dalla volta e gli specchi incastrati nelle pareti. La galleria, invece, conciliava la grandezza con la sontuosità, perché era vasta come 2 saloni messi in fila, e arredata di divani e sgabelli e mensole e tripodi dorati, e finalmente più degna, per le generazioni d'avi pendenti in effigie dai muri, della solennità che radunava i nipoti. Il giorno stabilito, prima del notaio, del giudice, dei testimoni e d'ogni altro parente, spuntò Don Blasco, rodendosi le unghie. Entrato che fu, si mise a girare per la casa ficcando gli occhi dappertutto, con le orecchie erte come un gatto, con le narici aperte quasi a fiutare la preda. Il principe ripeté che voleva tutti, ma Ferdinando non si vedeva ancora. Quando finalmente Ferdinando spuntò, stralunato, assonnato, come caduto dalle nuvole, fu uno scandalo. Mentre perfino la servitù era già vestita di nero, egli portava ancora l'abito di colore, e a Don Blasco, il quale gli diceva «Che diavolo hai fatto?», rispondeva balbettando «Scusate, scusate, non ci pensavo più». Thank you. All'invito del principe passarono tutti nella galleria. Il principe, il duca, il conte, il marchese, il cavaliere, il signor Marco, il giudice col notaio e quattro testimoni presero posto alla tavola. Gli altri sederono sui divani tutto intorno. La principessa appartata in un angolo, donna Ferdinanda con Chiara e la cugina Graziella da una parte, Lucrezia con la duchessa e la contessa Matilde da un'altra. Il priore, seduto sopra uno sgabello, incrociò le mani in grembo e alzò gli sguardi al soffitto, con moto di rassegnata indifferenza. Don Blasco, appoggiato in piedi allo stipite della finestra centrale, dominava l'adunanza come uno spettatore diffidente dinanzi a una prova di prestigio. Dopo un breve scambio di cerimonie col giudice, questi, in mezzo a un religioso silenzio, cominciò finalmente la lettura. «Io, Teresa Uzeda, nata Risà, principessa di Francalanza e Mirabella, vedova di Consalvo VII, principe di Francalanza e Mirabella, duca d'Oragua, conte della Venerata e di Lumera, barone della Motta Reale, Gibilfemi e Alcamuro, signore delle terre di Bugliarello, Malfermo, Martorana e Caltasipala, cameriere di Sua Maestà il Re, che Dio sempre feliciti. In questo giorno, 19 di marzo dell'anno di Grazia 1854, sentendomi sana di mente ma non di corpo, assistita dai consigli prudenti di ottimi amici e parenti, coadiuvata dall'opera intelligente del signor Marco Roscitano, mio amministratore e procuratore generale, con l'aiuto della divina provvidenza, alla quale ne rendo tutte le grazie del mio cuore, io oggi mi trovo di avere non solamente salvata, ma anche accresciuta la fortuna della famiglia. Di tutta questa sostanza io sono l'unica e sola donna e padrona, sì per la parte che rappresenta la mia dote in essi investita, sì perché il rimanente è frutto dei miei capitali parafernali e dell'opera mia, come ne fa ampia e piena fede il testamento del bene amato mio sposo Consalvo VII, il quale dice così. Il giudice sostò un momento per osservare: «Credo che possiamo saltare questo passaggio». «Infatti, è inutile», risposero parecchie voci. «Io nomino pertanto...» Tutti gli occhi si fermarono sul lettore. Don Blasco chinossi ancora un poco per meglio vedere lo scritto. «Eredi universali e le labbra del principe ebbero a un tratto un'impercettibile contrazione. Di tutti i miei beni, esclusi quelli che intendo siano distribuiti nel modo cui appresso indicato, i miei due figli, Giacomo XIV, principe di Francalanza, e Raimondo, conte di Lumera. Raimondo pareva non accorgersi dei sorrisi di congratulazione che gli rivolgevano. Donna Ferdinanda, con le labbra cucite, passava a rassegna i progenitori pendenti dalle pareti. Primo, in favore del mio diletto figlio Lodovico, in religione padre benedetto della congregazione cassinese, decano nel convento di San Nicola dell'Arena in Catania, la dotazione di 36 annue, assegnategli con atto del 12 novembre 1844. Venendo poi agli altri miei figli per eseguire la divisione legittimaria, lascio al mio beneamato Ferdinando. E Ferdinando, che era stato a seguire il volo delle mosche, si voltò finalmente verso il lettore. La piena e assoluta proprietà del latifondo denominato Le Ghiande, situato in contrada Pietra dell'Ovo, territorio di Catania, perché conosco l'affezione particolare che gli porta a questa terra, da me concessagli in affitto con atto del 2 marzo 1847. Restano così le mie due care figlie, Chiara, marchesa di Villardita, e Lucrezia, a ciascuna delle quali, affinché esse lascino la proprietà immobiliare ai loro fratelli e miei eredi, voglio che sia pagata, sempre a titolo di legittima, la somma di 10.000, dico 10.000, onze. Fatto al belvedere, scritto da persona di mia confidenza, sotto la mia dettatura, da me letto, approvato e firmato. Teresa Uzeda di Francalanza. Thank you.